Un sistema articolato e complesso che si è costituito nel corso dei secoli, ma la cui fondamentale caratteristica oggi è la separazione tra il reticolo idraulico artificiale che gestisce le acque della pianura, cioè la zona a nord della città, e il sistema dei torrenti e dei corsi d'acqua del fiume Reno, dei corsi d'acqua naturali che invece raccolgono tutte le acque della montagna. Sono due reti, una di tipo naturale ma che ha anche qualche addentellato artificiale, come il Navile, come il Saven abbandonato, che sono canali ma che hanno lo status giuridico di fiumi. Ecco, tutte queste vie d'acqua naturali sono deputati principalmente a smaltire le acque naturali che arrivano dall'Appennino. Veniamo da un periodo di grande piovosità, è piovuto sia in montagna che pianura. In genere, quando le condizioni lo consentono, il reticolo artificiale di bonifica, costituito da una rete di quasi 2 milioni di canali, 26 impianti idrovori di sollevamento e 26 casse di espansione, aspetta che passino nei corsi d'acqua naturali le piene di montagna, che arrivano prima perché portano dietro anche lo scioglimento delle nevi e poi hanno la pendenza, eccetera. Le acque di pianura vengono stoccate nei canali e nelle casse di espansione. Finita la piena dei corsi d'acqua naturali, tramite gli impianti di sollevamento, le acque di pioggia della pianura bolognese entrano a loro volta nel Reno per arrivare al mare, nel Reno o nei suoi affluenti. Il problema è che in questi giorni noi abbiamo avuto una pioggia abbastanza imponente, che si appoggiava su, insomma, un periodo piovoso precedente. Quindi il nostro sistema, che è un sistema di bonifica artificiale, aveva, diciamo, era già molto impegnato nello smaltire le proprie acque e si è trovato in queste ultime 48 ore a dover accogliere acque invece che sono tracimate da piene che sono acque di montagna, quindi è sollecitato in maniera importante. E si è verificato un po' l'opposto di quello che dovrebbe funzionare normalmente, cioè le acque di montagna si sono riversate sul canale di pianura. È chiaro che c'è stato un episodio di pioggia molto, molto imponente, quello che a volte non è prevedibile, come la rottura di un argine, e l'argine dell'Idice, che è un fiume torrentizio imponente, ha riversato in tutta l'area del Budriese l'acqua proveniente dalle vallate, diciamo, dello Zena, da tutte le vallate della parte montana di suo riferimento. Quindi questa pianura, che aveva le sue acque scolate naturalmente nei canali, si è vista riversare una notevolissima quantità d'acqua. Quando si rompe un argine, purtroppo accade questo. Ecco, in zona, come abbiamo visto, non urbana, ma dove erano presenti molte case coloniche, aziende agricole, eccetera. Noi in questo momento tutte queste acque sono confluite nel reticolo del nostro artificiale, che è costituito lì principalmente dal canali Corla, Sesto Alto e Garda, i quali erano già abbastanza pieni e che in questo momento invece proprio stanno tracimando più a valle queste acque che sono venute dall'Idice, perché non ce la fanno a reggere, diciamo, il doppio carico. Questa è la realtà. Queste acque poi convogliano tutte le acque della pianura bolognese in una situazione normale, le convogliano a Saiarino, dove c'è il principale nodo idraulico della Renana, dove scolano tutte le acque della pianura bolognese, della destra del Reno, e lì noi abbiamo le casse di espansione che riescono a contenere in quel luogo fino a 32 milioni di metri cubi d'acqua. Le casse sono tutte operative da 48 ore, stanno raccogliendo tutta quest'acqua in eccesso, però la sommatoria acque di pianura più acque di montagna è molto molto stressante per questo sistema. Contemporaneamente, da ieri il Reno, che ha destato tante preoccupazioni lo scorso inverno e che è comunque il fiume più impetuoso che abbiamo, la cui gestione, insomma, è sempre stata problematica nei secoli, è stato scolmato, nel senso che si è aperta la curva di Sant'Agostino verso il Bosco della Panfiglia dopo pieve di 100, si è aperta la connessione col cavo napoleonico e quindi da ieri scarica in Po, e quindi questo, insomma, gli consente di ricevere molto più a valle, sempre a Saiarino, tramite i nostri impianti, anche queste acque sollevate. Possiamo già immetterne qualcosa.